Stiamo studiando nel quarto capitolo di Pesachim diversi esempi di halakha che segue il minhag del luogo, l'uso del luogo. Ora parleremo un po' di Tisha B'Av per poi tornare in questa Mishnah a parlare della vigilia di Pesach dalla quale siamo partiti all'inizio del capitolo. Leggiamo e vediamo cosa dice la Mishnah. Mishnah Hei, quinta Mishnah del quarto capitolo. Mekom shenahagu, luogo in cui usano la'asot melacha betish'a be'av, di fare melacha, lavoro, durante tish'a be'av, ossin, in questo luogo è permesso farlo. Mekom shenahagu shelo la'asot melacha, luogo in cui usano non fare melacha di tish'a be'av, En osin, in quel luogo è vietato farla. Tisha B'Av è un giorno in cui è un giorno in cui si osserva il lutto per la distruzione del Bet HaMikdash, ma nonostante sia un giorno di lutto, non hanno vietato i Chachamim la melacha di Tisha B'Av. Questa è una novità, perché normalmente quando si osserva il grave lutto, quando una persona si trova nei 7 giorni di lutto, gli è vietata la melacha. Invece i Chachamim per Tisha B'Av non hanno vietato la Melachah, e uno dei grandi maestri, il Meiri, spiega perché il divieto di Melachah nel lutto c'è solamente in un lutto nuovo, fresco, nei 7 giorni stessi del lutto originale, ma in un lutto vecchio, per così dire, Avelut Yashan, Yeshena, cioè la notifica di un lutto avvenuto in precedenza, non fresco, non si applica il divieto di Melachah. E di conseguenza i maestri non hanno vietato la Melachah durante Tisha B'Av, solamente che in alcuni luoghi i maestri del luogo l'hanno vietato come cosa in più. E quindi quel minhag del luogo, se così fosse, va rispettato e bisogna non fare Melachah in quei luoghi. D'altra parte, nei luoghi in cui non è stato vietato per il minhag, allora si continua a fare melacha anche di Tisha B'Av. Scusa, dicevi? No, no, no. Ah. No, era Piero che ha chiesto cos'era la melacca. No, io Melacha, pensavo fosse lavoro. meglio. Ora, la È uno Mishnah che vieta dice: durante Shabbat, non vieta nel Shabbat. Uvechol makom, in ogni luogo che si usa così o che non si usa così, in ogni luogo, talmidei chachamim betelim. I maestri, i studiosi di Torah, talmidei chachamim, devono desistere dalla melachà nel giorno di Tisha B'Av per non distrarsi, per non distogliere il proprio pensiero dall'avelut, dal lutto di Tisha B'Av. Citando sempre il Meiri, che spiega che i Talmidei Chachamim è bene che prendano ancora più a cuore il discorso della distruzione, della mancanza del Beit HaMikdash, e quindi in un certo senso sentono ancora più fortemente il lutto, quindi ai Talmidei Chachamim si applica l'uso di non fare melacha anche nei luoghi in cui non c'è questo uso. Ora vediamo un'affermazione molto interessante da parte di Rabban Shimon ben Gamliel. Ascoltiamo cosa dice. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, disse Rabban Shimon ben Gamliel, Leolam Yaaseh Adam Atzmo Talmid Chacham. Per questa cosa qui di non fare melachah di Tisha B'Av, è bene che ognuno si consideri un Talmid Chacham. Vuol dire anche chi non lo è davvero un Talmid Chacham, o chi per altre cose non può considerarsi un Talmid Chacham. Per questa cosa è bene che la persona sia rigorosa con sé e si consideri un Talmid Chacham e quindi non faccia melachah di Tisha B'Av. Perché dice questo? Perché lo deve dire Rabban Shimon ben Gamliel? Deve dare, diciamo così, questo permesso a tutti quanti di assumere per questo contesto il titolo di Talmid Chacham? Perché normalmente sarebbe vietato assumere un titolo anche con un comportamento diciamo, messo in atto da persone particolari. Se qualcuno di semplice lo mettesse in atto, sarebbe considerata presunzione, ostentazione di qualcosa che non è davvero il tuo livello, e di conseguenza normalmente è una cosa sconsigliata o vietata. Si chiama Yehirut, Nel linguaggio del Talmud, Mechezek Yoara, sembra che si prende le arie, sembra presunzione. E questo normalmente è vietato. Allora chi non avesse visto queste istruzioni di Rabban Shimon ben Gamliel, penserebbe, io siccome non sono all'altezza di essere un Talmid Chacham, allora non devo desistere dalla Melachah di Tisha B'Av. Perciò viene Rabban Shimon ben Gamliel e dice, per questa cosa qui non è considerato come se ti sei assunto un titolo che non è tuo, o che ti sei ostentato come qualcosa che non sei, e invece è bene desistere anche se non sei Talmid Chacham. Considerati un Talmid Chacham per questa cosa specifica qua, di non lavorare Melachah durante il giorno di Tisha B'Av. Avendo parlato di Tisha B'Av e quindi avendo portato un altro esempio di Makom Shenahagu, luogo in cui si usa fare in un certo modo o luogo in cui si usa fare il contrario, ora la Mishnah torna a parlare di appunto quello dal quale siamo partiti, cioè il discorso di fare Melachah la vigilia di Pesach. Abbiamo detto all'inizio del capitolo, luogo in cui si usa lavorare la vigilia di Pesach fino a Chatzot, fino a mezzogiorno, è permesso. Il luogo in cui non si usa, e si usa non lavorare, allora è vietato. E abbiamo visto anche se uno va da un luogo all'altro, eccetera. Perché dopo Chatzot, la vigilia di Pesach, è stato vietato dai Chachamim per tutti. Prima di Chatzot dipende dal minhag del luogo. Tornando a questo contesto, la Mishnah dice, Chachamim omrim, i Chachamim dicono rispetto a quanto abbiamo detto non in questa Mishnah di Tisha B'Av, ma nella prima Mishnah riguardo la vigilia di Pesach, dicono i maestri, Bi Yehuda, nella regione di Yehuda, la capitale della regione di Yehuda cos'è? Gerusalemme, quindi quella zona. Hayu osim melacha be'arvei Pesachim ad Chatzot. Nella regione di Yehuda, nella zona di Yehuda, l'uso era che si faceva Melachah fino a Chatzot, la vigilia di Pesach. Non si usava essere rigorosi e non fare Melachah anche da prima di Chatzot. Mentre invece Ubagalil, nella Galilea, quindi più a nord, lo hayosi Melachah kol ikar. Non si faceva Melachah per nulla. Tutto il giorno della vigilia di Pesach era vietato fare Melachah. Cosa stanno dicendo i Chachamim? Abbiamo già visto nella prima Mishnah che c'è un luogo in cui si usa così e c'è un luogo in cui si usa così. Cosa stanno aggiungendo qui i Chachamim che non sapevamo già prima? Ci sono due opinioni su cosa ci stanno dicendo i Chachamim. Una opinione tra i commentatori della Mishnah è la seguente. I Chachamim stanno contestando quanto abbiamo detto all'inizio. Noi abbiamo detto che dipende dal minhag. I Chachamim qui stanno dicendo no, non dipende dal minhag del luogo. Non è un minhag, è proprio un'istituzione alachica che nella Yehudah è stata istituita in una certa maniera e nel Galil è stata istituita in un'altra maniera. Ma non è una questione di minhag. Cioè, noi abbiamo imparato nella prima Mishnah che l'istituzione alachica riguarda da dopo mezzogiorno, che lì è vietato fare Melachah, vigilia di Pesach. Prima di mezzogiorno dipende dalla decisione del minhag dei maestri del posto. I Chachamim dicono no, è che proprio è stato istituito così a priori. Nel Galil hanno istituito il divieto di Melachah tutto il giorno e nel Yehudah hanno istituito il divieto Melachah solo dal mezzogiorno. E quindi sono due alla cotta diverse, sembrerebbe. È una opinione diversa su questa halakha. Questo è un modo di vedere quello che dicono i Chachamim. Solo concludo. Il secondo modo di vedere quello che dicono i Chachamim è che non contestano assolutamente quello che abbiamo detto nella prima Mishnah. Semplicemente dicono quali sono i luoghi. Danno l'indicazione geografica. La Mishnah ha detto in maniera generica: Mekom Shenahagur, luogo in cui usano fare, luogo in cui usano non fare. Vengono i Chachamim e chiariscono quali sono questi luoghi. Non sono luoghi così su Marte o su in America. Sono luoghi specifici che conosciamo dove si usa fare nella Yehudah, la Yehudah è il luogo di cui parlava la Mishnah in cui si fa Melachah fino a Chatzot, e il Galil è il luogo di cui parlava la Mishnah in cui non si fa Melachah anche da prima di Chatzot. Quindi non è una contestazione, è solamente un chiarimento, secondo il secondo punto di vista di vedere cosa stanno dicendo qui i Chachamim. Sì? E in altri luoghi? Eh? Scusa, ma... E in altri luoghi che non siano Iudea o Galilea? È quello che abbiamo detto prima, a questo punto. Che cosa? No, quindi ci Quello che stanno abbiamo detto aggiungendo solamente che all'inizio. hanno specificato gli altri luoghi, allora Gli altri luoghi, c'è allora, Manì, qua c'è sì, il Minyan. C'è Minag, sì, Minyan. ma anche qui non è che stanno dicendo che non c'è il Minag in Yudai Galil, stanno semplicemente chiarendo qual è il Minag, Qual è il secondo luogo più questa grande seconda per loro? visione, no, di quanto dicono i Chachamim, è che chiariscono cosa è scritto nella Mishnah prima. Solo di questi luoghi. Solo di questi luoghi. Cioè, prendendo spunto da questi posti, poi si applica tutto quello che abbiamo detto finora. No, al contrario. No, perché prendendo spunto? Cioè, dicendo che Precisano. a Il Yehuda Minag si conta. fa in un modo, in Sì. Galilea si fa in quest'altro modo, per cui tutto quello che noi abbiamo detto adesso si applica fra Yehuda e Galilea Yehuda, pensa Riguardo la all'inizio. vigilia di Pesach Ecco, solamente, non sì. tutte le Sì, altre, sì. tutti gli altri esempi, non necessariamente. Sì, esatto. Loro stanno dicendo che la Mishnah stava parlando di Yehuda e Galil. Quando ha detto luogo così e luogo cosà, stava parlando di Yehuda e Galil. Che ci sono molte differenze di Minag, noi vediamo nelle Mishnayot e nella Gemara, ci sono molte differenze di Minag tra Yehuda e Galil. Ok, perché c'erano anche maestri che erano basati nella Due ore e Yehuda, mezza. maestri che erano basati nel Galil, e Due ore e mezza. abbiamo quindi anche molte usanze diverse. Di da 2 ore e mezza. Ora, Ah, ok. sì, Una prego. cosa, ma quando qua dice lo melachano, Sì. lui cosa intende realmente? Cioè, perché io quando dice questa frase così mi viene in mente Shabbat su 39 divieti, no? Ok, Qui quale. adesso lo chiariremo. Adesso lo chiariremo un pochino. Nella prossima Mishnah. È lavoro. È lavoro. Cavalli Sono e solo i lavori. avventori. È tutto il lavoro, se No, va dal punto di vista il loro. lavoro. Ok, un attimo di pazienza, chiariremo questa cosa. Proprio No, no, perché il io arrivo negozio. a Tisha B'Av. No, sì, lo so, questo è chiaro. Prima la Mishnah deve chiarire un'altra cosa. La conclusione di questa Mishnah. Ve halayla. Halayla. La notte. Se nella Galilea tutto il giorno è vietata la melachah, ok? Come abbiamo detto, secondo i Chachamim hanno detto che nel Galil è vietata la melachah già dall'inizio della giornata. Allora la domanda è, quando noi parliamo di una giornata, normalmente la giornata scatta dalla Sì, sera prima. sì. Allora per ciò che riguarda la sera prima, cioè la vigilia, l'antivigilia, quando si fa la ricerca del Chametz, no? La sera prima della sera del Seder, siccome tutto il giorno è vietato nella Galilea, è vietata anche la notte? Fare melachà? Questa è la domanda che la Mishnah si pone. Vale il discorso della giornata Quando vista comincia? come normalmente la vediamo ebraicamente, alachicamente, dall'inizio della giornata, cioè dal tramonto precedente? Allora la Mishnah dice, Ve halayla, e per ciò che riguarda la sera, la notte, discussione, Bet Shammai. I maestri della scuola di Shammai Osrin vietano la melachah già da prima perché normalmente quando c'è un giorno in cui è vietata la melachah è un periodo di 24 ore. Non troviamo normalmente un divieto di melachah che dura 12 ore. 24 ore? Allora dicono Beit Shammai, anche qui si applica la stessa regola e il divieto scatta di melachah scatta già dalla sera prima. Ma col digiuno, togli. Ubet Hillel Matirin, e Bet Hillel permette, perché dice no, esiste il concetto di qualcosa che è vietato solo per un periodo di 20, 12 ore, ad Hanetzachamah, loro permettono la melachah fino al sorgere del sole, così come troviamo nel digiuno, che il digiuno è vietato mangiare, ma solo dal sorgere del sole, a parte Kippur e Tisha B'Av, il digiuno normale. E la sera prima è permessa. Allora lui dice, possiamo prendere spunto dal digiuno, non dobbiamo prendere spunto per forza dagli altri giorni in cui non si fa melachah come Shabbat e Moed. E di conseguenza la halachah segue in questa cosa Bet Hillel. Ok. Ora, quando noi parliamo di melachah, vediamo adesso nella prossima Mishnah, e si faranno anche degli esempi di melachah che potrebbero essere permessi o vietati durante il giorno della vigilia del Pesach. In teoria si applica la regola come se fosse, quando si dice vietato fare melachà, dobbiamo fare il paragone con Chol HaMoed. Non con Shabbat, sì. Non è così estremo il divieto di Melachà, neanche come il Moed, che è un po' meno estremo di Shabbat, ma come Chol HaMoed. Anche Chol HaMoed è vietato fare Melachà in realtà. Quali sono le melachot che sono permesse di fare Chol HaMoed? Quello che è necessario per il momento, oppure una cosa che può portare a una perdita, per evitarla, si può fare melachà. Allora, ci sono alcune categorie di melachà che sono permesse di Chol HaMoed. In teoria, le stesse cose che sono vietate di Chol HaMoed sono vietate anche la vigilia di Pesach, quando noi diciamo non si può fare melachà. E legato a questo contesto e questo criterio simile a Chol HaMoed, vedremo che ci sono anche delle eccezioni. E questo la Mishnah adesso ne parlerà. Rabbi Meir Omer. Questa Mishnah di nuovo è sempre dedicata alla vigilia di Pesach. Rabbi Meir dice: Kol Melacha, qualsiasi lavoro, opera, Melacha, Shehitchil Ba, che la iniziò a fare, Kodem le Arba Asar, prima del giorno 14, quindi della vigilia, Gomerà la può concludere Be Arba Asar, il giorno 14 stesso la può ancora concludere, fino a Chatzot, chiaramente, dopo Chatzot c'è il divieto, ma fino a Chatzot, anche laddove si usa non fare Melachà prima di Chatzot, ma se fosse una cosa che ha iniziato da ieri, o comunque prima del 14, può portarla avanti, può concluderla anche durante il giorno 14 fino a Chatzot. Di nuovo, anche secondo nei luoghi in cui normalmente non si inizia a fare Melachà la vigilia la mattina, questo è solo per iniziare qualcosa di nuovo, ma qualcosa che è già stato iniziato e deve essere conclusa, può essere conclusa entro Chatzot della vigilia stessa. Questo però la Gemara, la Gemara precisa che questo riguarda una Melachà che è necessaria per il Moed. Non una melachà così a caso, una melachà, un'opera specifica che per qualcosa che mi serve per Moed. L'ho iniziato prima del 14, posso concluderlo il 14 stesso la mattina fino a Chatzot. Se è lezzore ha Moed, se è per necessità, per esigenza del Moed. Ma una melachà che non è esigenza del Moed, come detto prima, se si usa prima di Chatzot non fare Melachà in quel luogo, non si può fare anche se è stata iniziata da prima. Solo se è necessario per il Moed. Aval, continua sempre Rabbi Meir a dire, Aval, lo yatchil ba batechila berbasar, ma non la inizi a priori il 14, anche se crede di avere il tempo di concluderla. Afal pishe yachol le gomra, anche se la può teoricamente concludere, quindi dice, scusa, la stessa cosa, inizio e finisco entro Chatzot, no? Puoi solo concludere entro Chatzot, se l'hai iniziata prima. È sempre per esigenza del Moed. È sempre per esigenza del Moed. Ma se fosse una cosa da iniziare adesso, anche se dici, entro Chatzot ho finito, da mo' che ho finito, no, non lo puoi iniziare. Ora, vachachamim omrim, i maestri dicono così, e ora vedremo che i maestri non stanno discutendo contro Rabbi Meir, stanno chiarendo, specificando ulteriormente. Shalosh umaniot, ci sono tre categorie di artigiani, di lavori, osin melacha bearvei pesachim ad chatzot, che a priori fanno la loro melacha, la vigilia di Pesach fino a chatzot, che per loro è permesso in ogni luogo, anche laddove si usa non fare melachà da prima di Chatzot, dalla mattina, a queste tre categorie è permesso farlo. Ovviamente concludendo alla Chatzot. Perché? Perché queste tre categorie che vedremo sono specialmente essenziali per prepararsi e per preparare la gente per il Moed. Quindi è l'etzorech a Moed, per necessità del Moed. L'etzorech per la necessità del Moed. Quali sono? Veiluhen. Sono le seguenti. Tra l'altro, tra parentesi, come dicevo prima, le stesse sono permesse in alcuni casi di Chol HaMoed. Di nuovo c'è questo paragone. Cioè, proprio qui lo vediamo questo paragone. Quali sono queste categorie? Numero 1, Ve'eluhen, quella prima, e queste sono le seguenti. Hachayatim, cosa sono Hachayatim? Quelle che cuciono, no? Bravo, sarti. Sarti. I sarti. Perché? Perché devono preparare gli abiti. Sì, ma vediamo appunto il paragone con Chol HaMoed, perché se è necessario di Chol HaMoed rammendare, no? Fare qualcosa di cucitura, che è Melacha, è permesso farla in maniera non professionista, non professionista. Che se tu vai lì, prendi un bottone o una cosa che si è strappata, è una persona semplice, gli è permesso farlo anche di Chol HaMoed. Ok? E quindi la vigilia di Pesach, che è meno rigoroso di Chol HaMoed stesso, è stato permesso anche al professionista, al sarto professionista, per appunto preparativi di Moed, chiaramente. Seconda categoria, Hassaparim. Hassaparim sono i capelli. I barbieri. I barbieri. Ve Hakovsim. Hakovsim, che scherzi? Che lavano? Le lavanderie, nachon, machbesa. Perché? Perché a Chol HaMoed sarebbe anche permesso in alcuni contesti, ovvero se qualcuno arriva a casa Chol HaMoed da un viaggio, si chiama Medinat Hayam, cioè è venuto da oltremare e deve tagliarsi i capelli e deve lavarsi i vestiti, è permesso durante Chol HaMoed. E perciò è permesso anche la vigilia di Pesach fino a Chatzot, lavanderia e barbiere. Queste tre attività. I Chachamim, ripeto, non discutono con quanto ha detto Rabbi Meir, ma aggiungono a quanto disse Rabbi Meir. Rabbi Meir ha detto che se tu hai iniziato di fare la Melachà prima della vigilia di Pesach, puoi concluderla la mattina della vigilia di Pesach, anche laddove si usa normalmente non lavorare la vigilia di Pesach, e i maestri dicono, inoltre, è vero quello che ha detto Rabbi Meir, ma bisogna anche aggiungere che ci sono tre categorie che gli è proprio permesso fare la loro Melachà, la vigilia di Pesach fino a Chatzot, anche laddove si usa non fare Melachà la vigilia di Pesach prima di Chatzot. Parlo professionalmente. Professionalmente, sì, sì, sì. Professionalmente. Professionalmente perché? Perché è considerata un'esigenza per Moed. È considerata un'esigenza per Moed. Pubblico. Sì, assolutamente, è un servizio pubblico. Sì, sì, sì, assolutamente. Non perché è la sua Parnassà, perché se fosse... No, no, no, no, perché allora sarebbe permesso a qualsiasi Parnassà. No? Invece queste sono delle parnassà che però sono esigenze per la comunità. Sì, sì. Comunità. È Tzorech HaMoed, è considerato esigenza del Moed. Rabbi Yosef Bar Yehuda Omer, uno dei maestri, Rabbi Yosef, figlio di Rabbi di Yehuda, Rabbi Yehuda dice, c'è una quarta categoria che è permessa. Af Harratz Anim. Ratz Anim viene dalla parola Retzua. Retzua sono i pezzi lunghi di pelle, quello che intende dire sono praticamente i calzolai che si occupano delle calzature, di fare scarpe, di aggiustare scarpe, che visto che i maestri hanno permesso agli olei regalim, coloro che vengono a fare la aliyah la regel, vengono a fare il pellegrinaggio tre volte l'anno a Yerushalayim, e i chachamim permettono loro di aggiustare le scarpe durante Chol HaMoed. C'ha ragione. Ok? Allora questa è un'altra categoria che è permessa durante Chol HaMoed. Allora, dice Rabbi Yosef Bar Yehuda, anche qui applichiamo la stessa cosa e lo permettiamo anche vigilia di Pesach, non solamente per aggiustare, ma perché siccome la vigilia è meno rigorosa di Chol HaMoed, non solamente aggiustare, ma anche farne nuove. Simile al tagliare i capelli, eccetera. Però, i Chachamim non sono d'accordo. Il fatto che è permesso a coloro che fanno la aliyah, la regel, il pellegrinaggio, di aggiustare le loro scarpe durante Chol HaMoed per esigenze pratiche, non significa che è permesso fare scarpe nuove la vigilia di Moed, per chi non è andato da nessuna parte. Poteva prepararlo il giorno prima, o due giorni prima, o settimana prima. Non c'è da fare questo paragone secondo i Chachamim, e di conseguenza l'Alchan non segue l'opinione minoritaria di Rabbi Yosef Bar Yehuda, e rimangono solo le tre categorie esposte dai Chachamim a cui viene dato il permesso di fare Melachah la vigilia di Pesach, la mattina, anche laddove normalmente non si fa melachà. Non ha messo nessuno però da mangiare, perché scusa, uno arriva tutto stanco, le scarpe, quello, i vestiti, però non mangia. Chi ha detto che non mangia? E non è consentito qua. Il preparare da mangiare è consentito anche di Moed, quindi ha maggior ragione che è consentito la vigilia. Ah, giusto. Non c'è bisogno di dirlo. Ok? Benissimo, allora concludiamo qui e poi se ti vuole la prossima volta concludiamo il capitolo. E